Fa facoltà di parlare il ministro dell'Interno, onorevole Scajola. Una vita umana è andata perduta ed è questo motivo per tutti di grande dolore. Ma questo è solo un aspetto della realtà. Il governo aveva il dovere di garantire lo svolgimento del G8. Il G8 si è potuto svolgere in tutti gli appuntamenti previsti. L'area del vertice non è stata violata, nonostante i ripetuti tentativi dei gruppi più estremisti ed addirittura gli incitamenti di alcuni massimi responsabili del Genoa Social Forum. Genova. E poi hanno da un lato caricato continuamente tutte le iniziative del Genoa Social Forum, tutti i cortei, utilizzando il fatto formale di inseguire questi gruppi violenti che alla prima carica invece scomparivano, e la provocazione dell'altra sera di attaccare le due scuole, una del Genoa Social Forum e l'altra era un posto dove dormiva chiunque aveva bisogno di un posto per ripararsi dalla pioggia dei giorni precedenti, dichiarando poi di aver trovato degli strumenti atti a offendere nell'altra scuola associandola al Genoa Social Forum, è un'operazione che mira a distruggere proprio la credibilità del Genoa Social Forum. Ci sono delle forti infiltrazioni da parte delle forze dell'ordine e da parte dei servizi dentro questi gruppi violenti. Sono cominciate le udienze di convalida. Il grosso degli arrestati vanno ad Alessandria. Fabio Fimiani. Mamma e papà di figli da poco diciottenni, amici, fidanzate e mogli, per ore ad attendere davanti al carcere di Alessandria senza poter vedere abbracciare i propri cari. Le scarcerazioni avvengono con il contagocce. Andavo verso il pullman della rifondazione che andavamo a casa. Mi hanno a mani alzate, mi hanno preso e mi hanno portato dentro. Dentro ci hanno picchiato. Cioè è stato un incubo perché siamo stati 20 ore con le braccia alzate, con pause di neanche 10 minuti dove ci potevamo sedere, dove stavamo con le mani alzate in faccia al muro, non potevamo parlare tra di noi, non potevamo comunicare. Alcuni di noi sono stati pestati brutalmente. Da segnalare soprattutto il caso di una persona invalida che c'ha una protesi alla gamba e non ce la faceva a stare 20 ore con le mani in faccia al muro, è caduto per terra, lo hanno riempito di calci e c'ha una protesi alla gamba, insomma. Tu devi stare in piedi, capito? A parte le invettive che si... Dove avevano portato? Ma non lo so che cos'era, un ufficio di polizia, è un posto che sta sull'autostrada. Le compagne le chiamavano puttana, vieni qua, facci vedere come li fai, come lo prendi, cioè a un certo punto ho avuto una crisi, mi sono messa a piangere. Perché mi hanno detto, ma no, ti veniamo a trovare, mo che andate dentro, veniamo a trovare. I feriti sono ancora decine e decine. Si chiama Marco Howell, è un giornalista inglese di 33 anni. Da domenica all'alba giace con il torace spezzato all'ospedale San Martino. Lo hanno massacrato durante il blitz alla Diaz. Fino a stamattina gli era stato impedito di vedere un avvocato. La storia di Howell è simile a quella di tanti altri, ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali genovesi, inghiottiti dal nulla. Gruppi di avvocati vagano da un ospedale all'altro, impiegati escono terrorizzati dagli ospedali, nascosti tra il traffico, passano agli avvocati la lista dei fermati. Sono circa 450 al momento i scomparsi. I ricoveri ospedalieri sono stati gestiti direttamente dalla polizia. Un'infermiera ci racconta le frasi di alcuni poliziotti verso i feriti. Ci siamo divertiti, hanno detto. Gli abbiamo spaccato le teste a calci. Al primo piano del San Martino, racconta un impiegato, girano funzionari della CIA. Dagli ospedali, intanto, escono frotte di arrestati. Un ragazzo tedesco, braccio ingessato, occhi viola, ti guarda, chiede. È pericoloso girare per la città con le ossa rotte. Lina allo studio. Napoli, Roma, Firenze, Torino, Milano. Genova non è finita. Oggi in decine di città italiane ci sono state manifestazioni e presidi. A Roma la rete contro la globalizzazione economica si è data appuntamento in piazza Montecitorio. Linea ad Anna Bredice. Dal megafono si sentono le parole di Scajola. In piazza gli applausi del centrodestra in aula vengono coperti dai fischi e dall'urlo assassini. Intanto a Milano tantissima gente sta ancora arrivando alla manifestazione partita da piazza San Babila. In diretta dal corteo la nostra inviata Letizia Mosca. Sì, sono tanti davvero, 20.000 persone. La testa del corteo si è fermata davanti ai poliziotti e ha alzato le mani in alto come hanno fatto i ragazzi.